La tomba di Fabrizio De André è come un altare sul quale lasciare il segno e simboli di un affetto, fiori, tanti fiori, ma c'è chi ha portato sigarette, fiammiferi e messaggi. Che dire ancora ad un uomo che ha già detto tutto, ha scritto un anonimo. La processione al cimitero di Staglieno si è susseguita per tutto il giorno. Genovesi, ma non solo, c'è chi è venuto pure da lontano. È stato un omaggio corale e discreto nel 10° anniversario della morte del cantautore, la testimonianza di un vuoto incolmato. Già sabato allo stadio i tifosi del Genoa lo avevano ricordato con un video prima della partita. E ieri sera al Porto Antico il figlio Cristiano e Mauro Pagani hanno cantato Creusa de Ma in collegamento con la puntata speciale di Che Tempo Che Fa, che Fabio Fazio ha dedicato a De André. Ombre de mu, morite maine, tu te ne vegni, tu vele cane. Intanto a Palazzo Ducale prosegue la mostra allestita nel nome del poeta che cantava gli ultimi. Inaugurata il 31 dicembre è già stata visitata da oltre 16.000 persone. È la testimonianza originale di un affetto che si articola attraverso un percorso interattivo tra immagini, testi e musica. Andrea Ferro, GR24, Sole 24 Ore, Genova.